piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Macchia nera sulla Cina e la sua immagine nel mondo, una barbarie che sta sollevando un'ondata di sdegno in tutto l'Occidente. Il Festival della Carne di Cane, che si svolge ogni anno a Yulin, città del sud della Cina, il giorno del solstizio d'estate, è una vera e propria mattanza a cielo aperto. Circa 10.000 tra cani e gatti vengono trucidati in una celebrazione che alimenta un'attività di stampo criminale basata sul furto degli animali d'affezione ai legittimi proprietari, che non rispetta la normativa sanitaria in materia alimentare con gravi rischi per la popolazione e che vanifica gli sforzi che il paese sta facendo in materia di tutela del benessere animale. Per questo alla vigilia dell'appuntamento di Yulin si moltiplicano le manifestazioni e le iniziative contro il massacro di cani e gatti. A Milano l'onorevole Michela Vittoria Brambilla ha chiesto di sostenere la petizione dell'associazione Animal Asia, attiva da 15 anni in Cina su questi temi, e le associazioni che in loco si mobilitano per dare in adozione i cani che riescono a sottrarre al massacro, ma anche che l'Expo sulla nutrizione sia un'occasione per far conoscere questa aberrante realtà. Cani e gatti, dice, sono amici e compagni dell'uomo, non cibo. Chiedo a tutti i cittadini italiani e ai cinesi residenti in Italia di sottoscrivere subito la petizione di Animals Asia per fermare la strage di Yulin, che è davvero una barbarie incommentabile, e chiedo che l'Expo esca dal suo imbarazzante silenzio in tema di diritti degli animali per fare luce su quella che è davvero la più cruenta manifestazione dell'unica vera bestialità che conosca, quella umana. Avrete capito dalla contestualizzazione della Brambilla, che aveva un ruolo istituzionale allora, questo non è un servizio relativo all'attualità, è un servizio preso da una nostra trasmissione del 2015. Il 2015, 5 anni fa, esattamente questo giorno, a qualche giorno dal solstizio d'estate, parlavamo dello sgomento che desta in Occidente, in particolare in Italia, il Festival di Yulin in Cina. Questa ricorrenza tradizionale in questa città del sud della Cina, dove ogni anno per una settimana si mangiano i cani. E ogni anno, l'abbiamo registrato negli ultimi 5 anni, ci sono sempre persone piene di giusto e comprensibile raccapriccio e di immagini che circolano che tutti non vorremmo vedere, cani, cagnolini che siamo abituati a vedere passeggiare nei nostri giardinetti, in grembo alle nostre compagne, nei post più carezzevoli che ci scambiamo nei social network, vengono presi, messi in delle gabbie, portati, terrorizzati a una sorta di mattatoio a cielo aperto, e vengono spellati con lanciafiamme, uccisi, fatti a pezzi, mangiati anche sul posto, perché fa parte della tradizione in questa città di mangiarli sul posto per questa festa. Ogni anno si dice che deve finire con obbrobrio, c'è chi va in Cina direttamente a cercare di sabotare questa festa, chi manda in giro filmati che fanno veramente... Noi siamo condizionati naturalmente a vedere il cane come animale della compagnia, animale che abbiamo umanizzato, compagno dei nostri giorni trascorsi in famiglia, del nostro tempo libero, confidente delle nostre mestizie, quindi vederlo fatto a pezzi e mangiato ci crea un senso di disagio profondo. Ma anche quest'anno, naturalmente, l'anno in cui la Cina è al centro dell'attenzione mondiale, per essere stata almeno nella lettura più diffusa, scaturigine prima del Covid-19, di cui tutti ci sentiamo addosso ancora l'eco, le conseguenze e l'onda lunga, anche quest'anno naturalmente i cinesi, come se nulla fosse, hanno rifatto la loro festa. E quindi naturalmente anche quest'anno ci sono state dichiarazioni di tutti i tipi, la più eclatante quella diritta dalla Chiesa, che ha chiesto lo sterminio, l'annullamento di tutti i cinesi, l'estinzione dei cinesi, perché dice una cosa così abominevole, i cinesi si devono estinguere perché si mangiano i cani. E cerchiamo quest'anno, se è possibile, a distanza di 5 anni, di rifare un punto su questo che in noi crea sicuramente un senso di fastidio, anche se non siamo animalisti sfegatati, anche se non abbiamo il cagnolino sempre dietro. Certo, non è bello vedere un cane spellato e mangiato. Per noi è qualcosa di difficile. Ad altre latitudini verrà considerato un abominio anche la bella porchetta con il palo infilato o il maialino fatto al forno con la mela in bocca. Per qualcun altro sarà ancora peggio vedersi la bella bistecca fiorentina lì ritta, altezzosa sulla graticola, pensando il bovino da cui proviene. Ad altre latitudini ancora sarà un orrore vedere un bel coniglietto alla cacciatora, puoi immaginarlo bello, batuffoloso, peloso, saltellante, magari con l'orologio in mano come Alice nel Paese delle Meraviglie. Beh, questo relativismo culturale ci porta comunque, a seconda del luogo in cui ci è data ventura di nascere, a provare a capriccio se qualcun altro si ciba di animali che per noi hanno un senso di affezione. Qual è la soluzione? O abbracciamo la tesi della difesa specistica per cui ogni specie vivente merita rispetto e non deve essere mangiata, allora non ci mangiamo niente, ci mangiamo soltanto gli hamburger di Satan e siamo felici e contenti, o se no ci accontentiamo quello che passa per noi il convento, continuiamo a mangiarci le nostre bistecchine, i nostri spezzatini di coniglio, il nostro galletto fatto al forno, e non scocciamo i cinesi, che per loro il cane ha lo stesso valore affettivo che per noi è una gallinella, un coniglio e un maiale. 800 24 00 24. Simone Pieranni, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Allora, Simone Pieranni è un esperto di cinema, abbiamo sentito qualche settimana fa, un giornalista del Manifesto, autore di Red Mirror, Il nostro futuro si scrive Cina, editore La Terza, ha vissuto in Cina dal 2006 al 2014, ha ancora un attiva contatto con la Cina, perché ha fondato l'agenzia di stampa China Files e attualmente lavora a Roma, al Manifesto, come ho già detto, ma hai anche un blog che ancora è attivo, dove tu racconti la Cina, mi sembra. No, c'è China Files, che è un portale dove in realtà collaborano è un portale, anche ecco, scusami, è un portale in cui ogni giorno comunque continui ad aggiornarci un'agenzia di stampa su quello che avviene in Cina. Ecco, quindi sarai stato anche tu in qualche maniera obbligato a riferire quello che accade in Cina, quelle che sono le reazioni in Italia riguardo a questo festival del cane. Il tuo punto di vista di conoscitore della Cina, c'è una maniera neutra per poter valutare questo fenomeno senza essere accusato di spietatezza e odio per gli animali e allo stesso tempo senza pensare che tutti i cinesi sono dei cruenti assassini e dovrebbero essere estinti perché a Yulin si mangiano i cani? Sì, infatti io credo che il punto di partenza sia proprio questo, cioè il giudizio negativo, l'orrore anche per molte persone di quanto accade a Yulin è condiviso ormai dalla maggioranza dei cinesi. Ci sono ormai sondaggi che ogni anno, perché poi questo anche per chi si occupa di Cina è una sorta di appuntamento fisso ogni anno, cioè il festival di Yulin. Cioè, tu già te l'aspetti, ti prepari, cioè Yulin cominciamo. È una delle scadenze di cui tenere conto ormai da molto tempo. Ricordiamo che il festival, tra l'altro, ufficialmente è nato nel 2009 e si rifà a tradizioni che in realtà tradizioni non sono, tanto che è gestito, poi magari lo vediamo, principalmente per questioni di business, e ci sono poi tutta una serie di aspetti legali e del governo che poi appunto mi piacerebbe chiarire. Però partendo da è un po', scusa, come il Medioevo fantastico che le Pro Loco reinventano l'estate, si mettono due sbandieratori e quattro balestrieri e torniamo indietro di secoli, una cosa esatto, è finta. Abbiamo visto cose anche territoriali, geografiche, di ipotetiche nazioni anche dalle nostre parti in tempi più recenti, quindi esistono, diciamo, queste mitologie in cui si sì, come il raduno di Pontida, vuol dire esatto, questo, capito? No, certo, sì. Esattamente quello. Il carroccio che non è mai esistito, tutte ognuno, queste cose qua. Certo. Sì, ognuno pesca dalla storia un po' come meglio gli conviene. E in realtà, appunto, quello che volevo dire è che ormai secondo sondaggi che ci sono ogni anno, gli stessi cinesi, ormai il 64% nell'ultimo sondaggio stato fatto dei cinesi è contrario a questo festival. Anche ecco, questo realtà mi spieghi perché è cambiata la visione del cane come animale da compagnia. Prima cosa c'era? Un anatema, il cane si poteva mangiare perché in fondo era carne, c'era fame, si mangiava. Qual era il senso? Certo, noi a Genova ad esempio no, mangiavamo in tempo di guerra, si dice che mangiavamo le cosiddette lepri dei cuppi, cioè le lepri dei tetti che erano i gatti sostanzialmente. Sì, tutta Italia ha mangiato gatti, esatto. Certo, anche topi hanno mangiato per questo esatto. i nostri nonni, quindi... L'approccio agli animali domestici in generale è proprio un sintomo, si può leggere anche in effetti questo come un sintomo della crescita economica e del cambiamento anche degli stili di vita in Cina, perché ad esempio durante il maoismo erano vietati o comunque non supportati in quanto simbolo borghese, no? L'animale domestico in casa era una, come dire, un aspetto privato, intimo, un po' borghese, anche se poi in realtà tutti i leader cinesi hanno sempre avuto un animale di compagnia. Oggi ci sono oltre 70 milioni di animali domestici in Cina, perché è cambiato proprio lo stile di vita e quindi anche i cinesi hanno cambiato il proprio approccio nei confronti ad esempio dei cani, che comunque non è tradizione mangiare il cane in Cina. Cos'era un retaggio della Cina comunista? L'animale da compagnia era una sorta di simbolo di stili di vita borghesi. Sì, eri capitalista, no? Capitalista, se certo. Permettere. E comunque non era neanche bello in un periodo appunto di grande carestia, di fame, di difficoltà. Girare col cane che era un altro essere umano da nutrire. Ti seguiva la gente col tovagliolo al collo e la collina come nei cartoni animati, certo. Sì, esatto. E quindi oggi invece moltissimi cinesi hanno animali domestici, quindi è cambiata anche la tendenza. Allora, appunto, non tutti mangiano carne di cane, non è comune trovare carne di cane, anzi andare in posti specifici, anche a Pechino, nelle grandi città, ristoranti specifici. Però se prima c'era una sorta di indifferenza probabilmente nei confronti di questi eventi, come ad esempio il festival, da molto tempo invece c'è un'aperta ostilità anche di gran parte della popolazione, tanto che ci sono moltissime azioni di attivisti cinesi che nei giorni precedenti al festival fanno la posta praticamente ai tir che portano i cani a questo festival cercando di salvarne i più. Ecco, ma chi mangia il cane ancora perché lo fa? Una sorta di ossequio, una tradizione inesistente, ci si sente appartenenti a un filone di tradizione mai esistita. Come mai la gente ancora se li mangia i cani? O sono particolarmente prelibati che alla fine chi lo assaggia non ne fa più a meno? È un misto di panzane e di appunto mitologie scorrette, nel senso che ad esempio si dice che il cane mangiato d'estate dia vigore e maggior salute alle persone. Teniamo presente, tra l'altro, adesso non vorrei entrare in particolari scabrosi, però la carne di cane è una carne molto grassa, che ad esempio tendenzialmente in Cina dove si mangia d'inverno, non d'estate, quindi anche questa è una cosa che, per dire, smentisce quanto viene detto. Però partecipano moltissime persone, in realtà, perché è un appuntamento che è diventato, come dire, da un po' di tempo raccoglie appunto chi ha piacere di mangiare il cane, ma soprattutto un appuntamento che è stato creato da chi gestisce poi il traffico in realtà di questi cani, quindi è un appuntamento che puramente... Quindi è un grande business commerciale, si è creato un bisogno su una... e probabilmente si dice che il cane magari un po' attizza, fa star bene. Guarda, all'inizio di tutte le più grandi stragi di animali, e questo è paradossale, c'è sempre il desiderio di trovare una sostanza attizzante, ammazzano il rinoceronte per prendere le corna, lo zibetto, il pipistrello per farci sempre infusioni rizzanti, c'è sempre sto bisogno che hanno probabilmente a certe latitudini che ancora hanno una medicina molto basata su convinzioni sciamaniche, che in certe sostanze esista il siero della perenne erezione. Ci fermiamo un istante, abbiamo qualcuno del pubblico. Patrizia da Milano. Dottore, buongiorno. Sì, allora, io sono un amante degli animali e da anni ne posseggo, quindi... Ma come si fa a amare un essere vivente e possederlo? Mi spiega, perché il possesso è antitetico all'amore. Io se amo una persona non la voglio possedere, voglio lasciarle la sua... Infatti io i miei gatti li lascio in piena libertà di fare quello che vogliono e quindi non li faccio vivere insomma come vogliono e come credono. Allo stato grado, sì. Sì, quindi penso di accudirli e amarli. Vabbè, ho capito, lei è una gattara animalista, sì. Perfetto, ho anche cani. E quindi, ecco, quindi... io amo tutti i tipi di animali, tutti, quindi... Cioè lei si riempirebbe la casa, fosse possibile, tutti gli animali guardi, possibili, se potessi, come un'arca di Noè. Mi prenderei una fattoria e mi terrei tanti di quegli animali che lei non... Vabbè, è una passione, io non ho nulla di... avevo una madre esattamente in queste condizioni, ho vissuto con decine di gatti per casa, quindi lo so benissimo cosa significa. E quindi, rispetto al tema di oggi? Ecco, rispetto al tema di oggi, io penso che questi popoli che fanno queste cose meritano l'estinzione, perché... Sì, però ha sentito quello che abbiamo detto adesso fino adesso con il nostro ospite. È una tradizione limitata, gli stessi cinesi hanno detto basta, è un grande fatto commerciale, creato artificialmente, su una non tradizione, e c'è sempre questa convinzione che è come qualcosa di proibito, che quindi dà una sorta di marcia in più, lo fanno per questo. Ma per questo lei estinguerebbe tutti i cinesi, perché a Yulin si mangiano i cani una settimana all'anno? Guardi, non mangiano solo i cani, da quello che so io, quindi... Cos'altro cioè, mangiano? Che i mercati dei cinesi siano pieni di insetti da vendere al pubblico e ai ma clienti. Gli insetti, c'è libera vendita anche nella comunità gli europea? Gli insetti possiamo... da mangiare, quindi tutto quello che fa... cioè gli scarafaggi, tutte le cavallette. Ma una mazzacolla non fa schifo quanto una cavalletta, se la vede bene poi alla fine, con tutte quelle antenne, quei tentacoli. Ma io non la mangio, la mazzacolla. Comunque, a parte quello, cioè, i mercati cinesi sono pieni di questi animali che vengono mangiati, quindi non è una novità quella... che insomma si cibino di certe cose. Quindi, ma questo, diciamo, questa abitudine alimentare che cozza con, diciamo, le nostre abitudini di conservazione degli animali è una colpa che farebbe meritare l'estinzione di tutta la popolazione cinese, secondo lei? Di quelli che fanno queste cose, sì. Sì, perché è un punto di vista rappresentativo, naturalmente, di una tendenza che, come Rita Dalla Chiesa, come tante altre persone, dicono: muoiono i cinesi che si mangiano i cani. Ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Melog. Il festival di Yulin è ripartito. Porta avanti una consuetudine di consumo di carne di cane. Il numero di cani coinvolti in questa fiera della disumanità è molto alto e una parte consistente viene cacciata tra i randagi oppure sottratta ai ignari proprietari. Nemmeno la pandemia ha fermato questa mattanza. Una bruttissima notizia che abbiamo avuto è quella dell'inizio ieri di questo festival dove si consuma carne di cane, dove ogni anno vengono uccisi circa 10.000 cani. E speravamo di non vedere questa edizione, soprattutto alla luce della situazione attuale della pandemia da Covid-19, che ha portato le autorità cinesi non solo a vietare... 800-24-0024, stiamo parlando del festival di Yulin, che anche quest'anno ha permesso di esprimere il raccapriccio a tutti coloro che considerano i cani come inalienabili compagni delle loro vite, quindi chiedono estinzione e sterminio dei cinesi, o quelli che normalmente comunque provano disagio nel vedere un cane, che sono abituati a vedere come compagno di esseri umani, come con un legame affettivo, con una forte emotività, vederlo fatto a pezzi, spellato, poi è un brutto spettacolo. Stiamo parlandone con Simone Pieranni, che è un esperto di cinema, giornalista del Manifesto, fondatore dell'agenzia di stampa China Files, che ha scritto molti libri sulla Cina, l'ultimo è Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina, ne abbiamo parlato recentemente, ma sento qualche ascoltatore per vedere un po' le reazioni. Manuel, provincia di Udine. Buongiorno. Sì, l'ascolto. Ah, ok. La questione che mi sconvolge parecchio è che non ho mai sentito, almeno io non ho mai sentito, che un paese sovrano dica ad un altro paese sovrano come gestire la propria alimentazione. Ma non c'è nessuna, diciamo, presa di posizione ufficiale, lo dicono solo le persone, così come libera espressione del loro pensiero, non è che abbiamo fatto una... Mi sembra un'azione governativa verso la Cina, non vi mangiate i cani, non credo. Ognuno poi si esprime come vuole. Lei perché trova comunque singolare la reazione di tutti quelli che ogni anno inorridiscono, dicono basta, fermateli, fermiamo questo scempio? Guardi, io vivendo in Friuli e c'erano, almeno fino a prova contraria, un sacco di feste, di paesane, di cibo, nessuno se la prende con chi mangia altri tipi di carne, ed è una cosa tipo? Che a me sconvolge, è tipo fanno la festa del toro, per esempio, dove mangiano prevalentemente testicoli di toro, sempre per la questione... Vedi che c'è sempre detto questa cosa che... Delle erezioni mangiare perenni. Ma cercano sempre la perenne erezione alla fine, tutti quelli che fanno scelte alimentari particolari, capito? Sì, non è che si mangiano... La fettina di vitello, capito? Oppure, certo, che ne so, Ma il fatto che appunto sia questa la questione sconvolgente, che entrambi questi sì, ma era capricciante, le palle del toro a vederle su un piatto è una cosa che fa rabbrividire quasi quanto il cane, secondo me. Però la gente se le affetta, se le mangia tutti contenti sperando che salzi il tavolino, ma mi sembra una cosa assurda. Quindi lei dice bisognerebbe avere rispetto delle tradizioni altrui, per no, molti il toro... A parte questo, avere la coscienza di non fare specismo tra gli animali, cioè se un animale è peloso e un altro è peloso non dovrebbe essere mangiato indipendentemente dal tipo di animale. Lei pensa se esistesse ancora il culto di Mitra, il toro sarebbe un animale sacro, mangiare il toro per un fedele del dio Mitra sarebbe considerato un atto blasfemo, quindi è tutto relativo. Enrica da Roma, buongiorno. Allora, per fare il Moncler, in Ungheria spelano vive le oche nel punto più delicato. È la prima d'oca viene dalle oche, signora, la prima d'oca. La prima d'oca viene dalle oche. Quella signora che ha detto che ammazzerebbe il popolo. Allora, ama gli animali, ma è razzista. Grazie. Sì, vabbè, ha detto questa cosa che non ho capito il senso, che dentro i piumini c'è la piuma d'oca, e lo so, quando lei compra un piumino, cioè, può scegliere piuma d'oca o l'eco piumino fatto col sintetico, sì, è una scelta culturale. Ma guardate che le fanno vive, gliele tolgono vive le cose, le penne, scusatemi. Le piume. E poi adesso parliamo dei maiali, è quello che gli combinano ai maiali adesso qui in Italia, lasciamo stare. Ma io vengo dall'Umbria, sai quanti maiali ho visto ammazzare e ho contribuito all'uccisione del maiale? Il maiale si scanna, si fa pezzi, si fa le bistecche, le salsicce, i salami, i prosciutti, oppure si fa la porchetta, si infila un palo nel sedere che esce dalla bocca e si mette dentro il forno. È una cosa che abbiamo sempre fatto. Non per questo mi sento in colpa, allora? Ma io non mi faccio anche in colpa. Dico che però prima di parlare, come mi è piaciuto questo signore che non ha finito di parlare, è giusto quello che ha detto. Perché noi non dobbiamo meravigliarci. Io dico che per fare il Moncler si spellano vive sotto le piume delle oche e poi lì le ricuciono vive. Piuma d'oca. Allora, se le oche avessero possibilità di darci le loro piume in un pacchetto mandandocele via Amazon, togliendosele con l'anestesia, probabilmente questo è chiaro. Vabbè, ho capito, signora. Noi siamo, dice, crudeli altrettanto. In fondo l'animale che è sottomesso all'uomo subisce ogni forma di intempere, quindi non dobbiamo scandalizzarci per i cinesi. Fabrizio. Sì, buongiorno Nicoletti. Buongiorno. Senta, no, io penso che proprio l'ipocrisia sia universale, perché accidenti, tutti quelli che si lamentano appunto di questo discorso cinese, però poi magari mangiano il resto, gli allevamenti nostri, maiali e mucche, allevati in maniera indegna, è assolutamente... Però non è vero, devo dire, le persone che sono più veementi rispetto al Festival di Yulin sono persone che sono vegane, rispettano gli animali, hanno una visione generale che non ammette comunque nessun tipo di violenza sull'animale, quelli che maggiormente quindi sono coerenti, vedono un maggiore raccapriccio, perché l'animale in più è anche un animale a cui noi attribuiamo intelligenza, sentimenti, corrispondenza. Però il maiale non siamo abituati. Mi scusi, l'ultima cosa, sì. Poi chiudo. Secondo me la dalla Chiesa, tra virgolette, è un po' cagato fuori dal vaso, perché adesso dire che... Vabbè, ci sta. Hanno parlato di lei due giorni, cioè poi ha fatto retromarcia, no, estinzione no, non lo so, magari avrà detto, che ne so, un po' di diarrea per qualche giorno, così imparano, non lo so adesso. Sono quelle battute, si scrivono nei social, perché l'effetto di ritorno ci provoca visibilità. Adriano, velocemente. Sì, Adriana, salve. Scusi, Adriana. Sì, senta. Allora, sì, io volevo dire solo una cosa a proposito del maiale, perché io ho vissuto fin dalla mia tenera età in una famiglia dove uccidevamo sempre il maiale. Non me ne sono era mai una festa, la festa più bella dell'anno era. Allora, diciamo sì, perché i miei genitori facevano tutto questo investimento per comprare questo maiale che per noi era prezioso. Io solo da qualche anno mi sto accorgendo effettivamente che l'uccisione era una cosa drammatica. Però io all'epoca questa cosa, vi dico, non la sentivo così, perché anche quando lo uccidevamo, perché lo mettevamo sulla madia, veniva il norcino, gli infilava il coltello, perché poi usciva il sangue lo raccoglievamo. Adesso non si fa più così. Adesso non si fa più così. Adesso non si può fare più, però c'era questa cosa. Però voglio dire una cosa. Noi andavamo col secchiello a prendere il sangue per fare il sanguinaccio. Sì, poi facevamo i sanguinacci, tutta questa cosa. È un altro mondo. Abbiamo vissuto un altro mondo, oggi c'è una sensibilità diversa. Chi oggi avrebbe potuto paradossalmente vedere un filmato d'epoca all'epoca in cui c'era Adriana col secchiellino che prendeva il maiale mentre ancora è vivo, mentre gli pompavano il sangue e tirandogli le gambe come si faceva per andare a fare il sanguinaccio a bambina tutta contenta, avrebbe detto che cosa terribile, sterminiamo. Ritorniamo a Simone Pieranni. Simone Pieranni, allora, ritorniamo a contestualizzare l'evento cinese. Tu mi hai detto che comunque anche in Cina c'è un movimento culturale ormai ben definito, probabilmente che guarda l'Occidente come anche un modello di comportamenti che è contrario. Ma come si stanno muovendo? Secondo te quale sarà il futuro poi di questo festival? Prevarrà il mercato e l'economia di Yulin, che si basa anche sulla mattanza dei cani, avrà diciamo la sua prevalenza, oppure alla fine lo chiuderanno come stanno chiudendo tutte le manifestazioni che prevedono l'uso cruento di animali? Ma intanto volevo fare secondo me il rapporto tra animale e persona non è un rapporto appunto magari domestico, casalingo o nell'aia, nel cortile, non è prerogativa dell'Occidente, nel senso che non è che in altre civiltà li hanno sempre mangiati o sterminati, insomma, prima di tutto. Poi invece per quanto riguarda Yulin, allora innanzitutto dopo l'epidemia di Covid la Cina ha bandito il commercio di carne di cane a Shanghai e Shenzhen, che sono comunque due megametropoli, anche perché il consumo di carne avviene per lo più in quella zona del paese, in due regioni, quello dove viene organizzato il festival e poi nel Guangdong, che è quello, una regione del sud-est cinese appunto dove c'è Shenzhen. Inoltre da ormai, mi pare dal 2014, le autorità locali di Yulin, che all'inizio avevano supportato l'iniziativa entusiasti pensando che avrebbe accresciuto il turismo nella città, quando si sono resi conto che in realtà pure ai cinesi non piaceva questo festival, hanno tolto il loro patrocinio e quindi in realtà appunto è rimasta una cosa solamente business. E quest'anno ho letto, quest'anno lo hanno anche relegato in una sorta di periferia, esatto, non è più una cosa centrale. Esatto, anche perché è arrivata la proposta di legge per la cancellazione di fatto di questo genere di festival, che non è ancora stata approvata, anche perché comunque essendo un'iniziativa privata non è che si possa per legge vietare così facilmente appunto un certo tipo di iniziative come queste. Però a me pare che la tendenza ormai in Cina sia quella appunto di vietare innanzitutto il commercio di carne, anche perché non è così comune, come abbiamo più volte detto, così come non è comune tutta un'altra serie di cibo di cui qualcuno prima ha parlato, nel senso che nei mercati cinesi non è che c'è una giungla di animali particolari, c'è di tutto, e sappiamo, abbiamo visto anche con l'epidemia, che ci sono anche tutta una serie di animali selvatici, che tra l'altro sono abbastanza un classico asiatico, che vengono utilizzati in realtà non per essere mangiati, ma per appunto medicina tradizionale, o unguenti e rettili, che sono tra l'altro, credo, sì, per essere triturati, spezzettati, maschile, cioè. Nel senso che io non credo che, insomma, questa mangiare i testicoli del toro o addirittura anche altro, e i cani, perché danno appunto. Beh, guarda, io che sono un consumatore di mezcal, ho la collezione dei vermi del mezcal, che lo metto dentro il mezcal perché pensano che te lo bevi con quel verme mummificato dentro, chissà che ti succede. Ti giuro, ho bevuto tanto, ma non è che ho visto varianti particolarmente notevoli. Ci fermiamo ancora un istante. La tua impresa ha bisogno di liquidità immediata. Da oggi puoi incassare in anticipo le fatture emesse in modo facile e veloce. E come? Con Incassa Subito, il servizio del gruppo Team System per piccole e micro imprese, senza costi di attivazione, 100% digitale e da oggi accessibile a condizioni sempre più competitive. E per i clienti Team System è già integrato nel gestionale. Allora è facile, lo attivo subito. Provalo subito su incassasubito.com. Team System. Log 800240024, con somma e riverente gratitudine, da Milano mi manda in onda Roberta Frisani, Anita Panizza mi assiste, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti mi assiste da casa sua, Fortunato. Stiamo parlando del Festival di Yulin, ne stiamo parlando con un collega esperto in Cina, che è Simone Pieranni, che ci sta facendo capire che in realtà non è accomunabile a tutti i cinesi questa usanza, ma limitata comunque a il comune, al circondario di Yulin, dove c'è un grande business, c'è un'organizzazione che ha messo su l'idea della tradizione della carne di cane, la sottile allusione al fatto che la carne di cani sia particolarmente rinvigorente, insomma è una bella festa e ancora la gente lì si mangia i cani. Sentiamo qualche telefonata, poi concludiamo con l'ospite. Andrea da Milano. Sì, buongiorno Gianluca, io volevo portare la mia esperienza di un viaggio che ho fatto nel mese di agosto l'anno scorso in Cina, accompagnato da un residente cinese, quindi da un amico cinese di Dalian. E alla fine di questo giro siamo passati per il Yulin e ho avuto la conferma che è normale in quella zona mangiare il cane. Siamo andati proprio in un ristorante specifico, specializzato proprio per la carne di cane, e ho chiesto quale fosse l'origine di questa tradizione. E la ristoratrice mi ha semplicemente detto che in quella zona vengono allevati dei cani da caccia di grossa taglia, cani da guardia, scusami. E le cucciolate vengono selezionate, i cani più forti e resistenti vengono allevati da guardia, gli altri vengono macellati. Quindi gli scarti di allevamento di cani da guardia li usano per mangiare. Ecco, per essere, esatto, questa nocivo, è l'informazione, cioè, che mi è stata data. Poi in questo ristorante si poteva mangiare. L'hai mangiata te? L'hai assaggiata? L'ho assaggiata. E di che sa? Amico... No, per curiosità. Allora, è come il vitello leggermente selvatico. Io l'ho mangiato con i fagioli, diciamo alla Bud Spencer e Terence Hill, per intenderci. Poi si poteva mangiare in umido come la lingua di bovino che usiamo noi. Madonna, però che una cosa mi fa... A me quando arriva il carrello dei bolliti mi passa la fame, capisci? Ognuno ha le sue sensibilità a vedere già quel grasso bollito. Però sa, ognuno ha il suo... Beh, ti sei mangiato il cane, sei ancora vivo. Però tutto sommato non mi sembra che sia una esperienza paradisiaca, che se una volta lo mangio ne fai più a meno. Una carne, io ho mangiato la zebra, ho mangiato il rinoceronte, ricordo che c'era un ristorante, Le Carnivore a Nairobi, dove ti portano di tutto, ti portano, che alla fine alla decima portata non distingui più lo zebù da rinoceronte, è sempre la stessa roba, sembra. Andrea, provincia di Varese. Non c'è Giovanni da Vicenza. Giovanni. Buongiorno. Niente, io volevo ricordare. Chi sei, Giovanni o Andrea? Giovanni. Giovanni, Vicenza. Sì, Vicenza. Sì. No, io sinistra fama aleggia sulla tua città. Sinistra fama, sì, Maria Gatti. Lo so. No, io volevo dire che io premetto che sono vegetariano, applico la dieta yogica, né carne, né uova, né pesce da 37 anni, e da allora ho cominciato a stare bene, e prima quando mangiavo carne stavo male. Vabbè, è la tua formula di salvezza, quindi... Ma a parte questo, volevo dire che questa... Ma la dieta yogica prevede anche poi esercizi, non basta solo mangiare. Sì, beh, tutta la disciplina, chiaramente, non solo castità, mangiare. Tutte queste cose qua, penso. No, castità no, la castità è solo... paraculi, legale, come no, anche quello prevede, come no. Certo. No, prevede il sesso legale, che è diverso. Sesso legale? Sì, non è castità. Legale. Sesso legale, fai l'amore con dire? La tua fidanzata, con la tua moglie, non fai l'amore col primo che passa, insomma. Però, solo con la persona, diciamo, cui sei legalmente legato, così. Legalmente legato o affettivamente... Sicuro, perché sta cosa che gli yogi indisponessero questo problema mi sembrava strano. Comunque, vabbè, detto questo... No, i yogi monaci sì, sono casti. Gli yogi laici sono... vivono il loro rapporto con la persona amata, insomma, non con qualsiasi persona. Quindi per forza amare la persona con cui ti congiungi, se no non puoi farlo. Beh, è una forma anche questa di salute. Detto questo, sui cinesi cosa pensi? Su questa festa del cane? Io sui cinesi penso che sia una schifezza questa storia che mangiano i cani, però volevo parlare soprattutto della violenza degli animali, no, di noi occidentali. Scusa, ti voglio tagliare, rifacciamo il discorso sulla violenza degli animali, è un altro argomento. Chiudo una battuta con Simone Pieranni. Alla fine cosa ti sembra, che esistono strumenti culturali per arginare ogni anno questa sorta di raccapriccio che si scatena nell'Occidente civilizzato a fronte di questo banchetto con i cani, secondo te? Ma intanto, secondo me, cominciare a raccontare anche di quello che i cinesi fanno contro questo festival in generale, riguardo la sensibilizzazione anche proprio in generale sull'utilizzo e sull'alimentazione di carne. in Cina, dove si sono sviluppati ormai moltissimi mercati biologici, dove c'è una tendenza anche a scelte vegetariane e in generale. E quindi abbiamo relativizzato il fatto che non si può fare una colpa generale a tutti i cinesi, ma alla città di Yulin, dove ancora continuano a mantenere questo festival che si basa su tradizioni del tutto tarocche. Alla prossima, grazie Simone Pieranni.